24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'esplosione di venerdì nel centro di Oslo causato da una bomba. Continueremo a parlare anche del piano di salvataggio della Grecia per la cancelliera tedesca Angela Merkel. Si tratta di un risultato assolutamente significativo. Vi riporteremo anche le reazioni delle agenzie di rating. Continueremo a seguire lo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna e vi porteremo in Romania per parlarvi del problema ormai annoso dei cani randagi. Infine, le ultime dal Tour de France. In apertura l'esplosione che si è verificata venerdì pomeriggio nella capitale norvegese Oslo. La deflagrazione ha avuto luogo nella sede di un giornale che si trova nelle vicinanze dell'ufficio del primo ministro. I media locali hanno parlato di morti e feriti. Per la polizia l'esplosione è stata causata da una bomba. La deflagrazione ha danneggiato la maggior parte delle finestre della sede del VG, il maggiore quotidiano norvegese, e dell'edificio governativo che ospita l'ufficio del premier Jens Stoltenberg. Secondo la polizia l'esplosione è stata provocata da una bomba. Voltiamo pagina, ora le reazioni sul vertice dell'Eurogruppo che ha chiuso un pacchetto di aiuti per la Grecia pari a 160 miliardi di euro, di cui 109 a carico di Europa ed FMI e 50 a carico del settore privato. Iniziamo con le agenzie di rating. Moody's sta valutando le misure contenute nel piano e si riserva di commentarlo nei tempi previsti. La Grecia va incontro a un restricted default, ossia un default limitato alla luce del piano sul debito di Atene, lo afferma l'agenzia Fitch. Sempre per Fitch l'accordo è un passo importante per la stabilità dell'Eurozona. E ora le reazioni politiche. Le decisioni prese giovedì rappresentano dei risultati assolutamente significativi, lo ha affermato a Berlino la cancelliera tedesca Angela Merkel. C'è ancora molto da fare in ogni angolo d'Europa prima di uscire dalla tempesta in cui è finito l'euro, così il commissario agli affari economico-monetari Olli Rehn. E a chiusura di questa ampia pagina sentiamo il commento dell'economista Mario De Aglio, molto critico verso l'accordo salva Grecia. Hanno messo una pezza sulla ferita e sperano che la ferita guarisca da sola. Non hanno, diciamo così, messo in atto nessun meccanismo che possa prevenire altre crisi del futuro. Io credo che questo sia un piano inclinato in cui la situazione così non può durare. O si va verso una maggiore uniformità europea, che probabilmente passa per una tassazione europea e anche la devoluzione a un governo centrale europeo di alcuni compiti economici. Quindi sostanzialmente riduce gradualmente i vari paesi al livello a cui si trovano gli stati dell'Unione degli Stati Uniti. Quindi l'Italia diventa come il Massachusetts o l'Arizona o qualcosa del genere. Quindi ci saranno delle imposte locali, ma poi c'è un'imposta nazionale. Oppure andremo verso una situazione in cui ci sarà un Euro 1 che sarà fatto dai tedeschi e da altri 6 o 7 paesi e poi alcuni altri euro che fluttuano rispetto all'Euro 1 secondo limiti prestabiliti. La situazione attuale è instabile, quindi o si va avanti o si va indietro. Ascoltiamo ora come i mercati in chiusura di settimana hanno giudicato l'accordo sulla Grecia e il punto su Piazza Affari. Il FTSE MIB, complice l'andamento debole di Wall Street, ha segnato meno 0,15%, registrando la peggiore performance tra le piazze europee cresciute meno nei giorni scorsi. I rialzi hanno colpito soprattutto le banche, in primis Unicredit meno 4,56% e UbiBanca meno 3% circa. Ha chiuso ancora in calo Parmalat meno 1,8%, terminando la seduta sotto quota 2 euro ai minimi da fine dicembre. Dall'8 luglio, giorno in cui si è concluso l'aumento di capitale e i francesi di Lactalis sono saliti all'83%, le azioni hanno ceduto quasi il 23%. Per contro, la Galassia Agnelli ha mostrato un deciso rialzo. Fiat e Fiat Industrial hanno segnato più 2,3% ed Exor più 3%. In attesa dei conti che verranno pubblicati la prossima settimana, il mercato ha apprezzato l'annuncio del lingotto relativo all'incremento della quota in Chrysler al 53,5% con l'impegno a salire al 58,5% entro fine anno. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il punto sullo scandalo intercettazioni in Gran Bretagna. James Murdoch ha domande a cui deve rispondere in Parlamento, ha affermato il premier britannico David Cameron, dopo che due ex dirigenti della tabloid News of the World hanno contraddetto una parte della deposizione del figlio di Rupert Murdoch martedì alla Camera dei Comuni. Sentiamo. Il presidente della Commissione Cultura, Media e Sport della Camera dei Comuni, che martedì ha ascoltato Rupert, James Murdoch, vuole adesso chiarimenti da quest'ultimo, dopo che due ex executive di News of the World ne hanno contraddetto contraddetto la deposizione. John Whittingdale, deputato conservatore, ha detto che vuole una risposta entro una settimana perché è una questione seria ed è chiaro che c'è un conflitto tra due versioni. A contraddire James Murdoch sono stati Colin Myler, ex direttore del Domenicale, e Thomas Crone, avvocato di News International, licenziato prima che il tabloid venisse chiuso in seguito allo scandalo delle intercettazioni. Myler e Crone hanno accusato il giovane Murdoch di aver messo fuori rotta il Parlamento quando ha detto di non essere a conoscenza di una mail da cui si desumeva che la pratica delle intercettazioni era più diffusa di quanto sostenuto da News International. Il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, scrive intanto il Wall Street Journal, starebbe preparando una serie di mandati di comparizione nell'ambito delle indagini preliminari che sta svolgendo nei confronti di News Corp, la holding americana del magnate di origine australiana. Gigi Donnelly, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci trasferiamo adesso in Romania, dove oltre 2 milioni di cani randagi sono da anni un problema sanitario e di sicurezza. Sara Turetta, presidente di Save the Dog International, ne ha parlato con Federico Taddia. Nel 2001, quando ho visto lo sterminio che l'allora sindaco di Bucarest, oggi presidente della Romania, Traian Basescu, aveva intrapreso, ho deciso di interessarmi e di capire che cosa stava avvenendo dietro casa nostra, perché la Romania è tutto sommato un paese molto vicino. E da questa esperienza, da questo contatto con lo sterminio dei cani randagi, che in Romania sono tantissimi, si parla di un paio di milioni di cani randagi, è nato il desiderio di cambiare vita e di lasciare la pubblicità, e mi sono trasferita in Romania partendo da zero e avviando alcuni piani di sterilizzazione, convincendo dei sindaci a interrompere le uccisioni e spiegando loro che non è quello il modo di affrontare il randagismo. È stato un inizio pionieristico dal nulla, che però negli anni ha portato a dei risultati, e nel 2005 è nata Save the Dogs, che è anche una sede in Italia e che raccoglie fondi per finanziare i progetti che l'associazione porta avanti in Romania. Oggi ci sono 40 persone in Romania che lavorano per la nostra Onlus, quindi diciamo che abbiamo bruciato i tempi, perché in 9 anni siamo cresciuti veramente tanto. Ora la cultura. Il pittore di fama europea e internazionale Lucian Freud, che con i suoi lavori ha contribuito a ridefinire l'arte figurativa contemporanea, è morto a Londra all'età di 88 anni. Sentiamo la critica d'arte Ada Masuero. Lucian Freud è stato uno dei grandi protagonisti dell'arte non solo inglese del dopoguerra, ed è stato un campione di questa pittura tormentata e molto anche brutale, con queste ispezioni crudeli del corpo umano. Io ricordo che l'ultima sua mostra che ho visto è stata quella al Pompidou dell'anno scorso, e mi ricordo che entrando al Pompidou mi ripetevo: non devo pensare che è il nipote di Freud, ma non si riesce a non pensarlo, perché come Sigmund Freud scandagliava, ispezionava la psiche umana, così lui scandaglia, ispeziona il corpo, le carni, e ha questa predilezione per dei corpi nudi che sono brutti rispetto ai nostri standard, sono troppo grassi, addirittura obesi, oppure sono emaciati, oppure sono flaccidi, e si fa degli autoritratti che sono impietosi, crudelissimi, con queste posture grottesche e questa insistenza sugli organi genitali. Insomma, è stato sicuramente un artista difficile, che dava dei pugni nello stomaco a chi guardava le sue opere, però è stato grande, grandissimo. In chiusura lo sport. Tour de France, il lussemburghese Andy Schleck è il nuovo leader della classifica al termine della 19ª tappa. Schleck ha strappato la maglia gialla al francese Thomas Voeckler. Sentiamo. Una tappa da sogno nel teatro ciclistico più bello del mondo, l'Alpe d'Huez. Festa grande per il giovane Pierre Rolland, francese di 24 anni, migliore dei giovani del Tour, che vince la tappa regina e ringrazia Pantani, il campione del cuore, che lo ha spinto in bicicletta. Tappa da sogno per i fratelli Schleck, che questa sera sono primi primo e secondo, maglia gialla al giovane Andy, secondo posto per il fratellone Frank. Tappa da sogno anche per il nostro Damiano Cunego, che resiste con tenacia e coraggio e arriva coi fratelli lussemburghese e l'australiano. Crolla invece Ivan Basso, che perde più di 2 minuti. Sogno appena sfiorato per il più combattivo di giornata, Alberto Contador, che soffre ma fa soffrire tutti fin dal col del Telegraph. E poi via sull'Alpe d'Huez, dove assapora il sapore dell'impresa, ma alla fine si deve accontentare solo di un terzo posto e di una manciata di secondi portati via a Evans e ai fratelloni. Sogna ad occhi aperti Casalena, che è terzo questa sera, 57 secondi dalla maglia gialla, ma è il più bravo di tutti a cronometro, e domani nella crono di Grenoble, all'occasione della vita, vincere il Tour de France. Per i fratelli Schleck vincere il Tour è un sogno, per Evans una magnifica realtà. Pier Augusto Staggi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Alpe d'Huez. Ed è tutto per questo nostro appuntamento con 24 Ore in Europa. Un grazie come sempre a Mauro De Angeli per l'assistenza in regia. Una buona giornata da Sergio Nava. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.